No. Questo centro, Pomai, l'Istituto Amazon K, è il primo centro di Dharma che abbiamo avuto qua in Italia e da dove sono venuti tutti gli altri centri, e la sua importanza per cui è fondamentale. E per cui quando sono arrivato quest'anno mi sono accorto che l'amministrazione è cambiata, ci sono parecchie persone diverse negli uffici e comunque nell'amministrazione, così ha un primo sguardo di quello che sta succedendo e di che cosa è successo qui nel centro. Ho visto dei cambiamenti, dei miglioramenti incredibili. Sono molto contento di quello che ho visto, per cui voglio ringraziare coloro che guidano il centro e coloro che lavorano attorno al centro per preservarlo e farlo andare avanti in questo modo. Grazie. Per cui, per esempio, quando parliamo dell'importanza, di come sarebbe meraviglioso se ci fosse la pace del mondo. La pace del mondo deriva dalla pace dell'individuo, del singolo individuo. E la pace del singolo individuo deriva dalla una pacificazione mentale. Se questo individuo, non c'è un'altra pace che si può tenere sulla base dell'individuo che pacifica la propria mente e poi piano piano si moltiplica questa cosa, e quella è la pace nel mondo, avviene solo in quel modo lì, non c'è un'altra pace diversa che poi è applicata dal mondo. Per cui la pace nel mondo deriva dalla pace dell'individuo, la pace dell'individuo deriva dall'avere una mente pacificata dalle oscurazioni, dalle emozioni distruttive, dalle afflizioni mentali, e quello è perché la mente non è pacificata. Per cui il centro di Dharma diventa indispensabile. Senza il centro di Dharma è impossibile ottenere quel tipo di pacificazione mentale. Perché? Perché è nel centro di Dharma che si insegna come ottenere quella pacificazione mentale. Ora qui noi siamo in Occidente, siamo in Italia, non è come in India o in Tibet che non c'è bisogno del centro di Dharma, non c'è povertà di maestri spirituali, non c'è povertà di praticanti, si può andare, vedere, fare, uno può essere completamente autosufficiente e andare dai propri maestri e portare avanti la propria pacificazione mentale. Qui è diverso, qui siamo in Occidente. Per cui senza il centro di Dharma è impossibile invitare i maestri, senza invitare i maestri è impossibile che i maestri insegnino, senza che insegnino è impossibile che ci sia qualcuno che venga che impara. Ed è sulla base di venire a prendere insegnamenti che improvvisamente la gente scopre la realtà delle azioni e dei loro risultati, la realtà delle emozioni distruttive, di come disturbano la mente e di come eliminarle. Ed è da lì che comincia la pace mentale, è da lì che l'individuo poi fa uno sforzo e comincia a pacificare mentalmente. Per cui tutto questo processo a catena comincia proprio perché c'è il centro di Dharma, diventa indispensabile, per cui è la base indispensabile per lo sviluppo della pace del mondo, è proprio il centro di Dharma. In particolare questo centro è diverso dagli altri centri, non solo è il centro più grande, ma questa è la radice di tutti gli altri centri, sono venuti da qua, quegli altri centri, per cui c'è una grande responsabilità. Ed è estremamente importante la preservazione, la continuità di questo posto. Per cui voglio prima di tutto sto parlando ovviamente all'amministrazione, che ha la responsabilità di portare, e anche tutti coloro che lavorano dentro il centro, di avete fatto un ottimo lavoro, per piacere continuate in questo modo, non scoraggiatevi, continuate a lavorare bene, a pensare ad andare avanti, ma soprattutto alla gente, a tutti gli altri che non necessariamente lavorate dentro questo centro, ma usufruite, venite. È indispensabile che tutti noi ci sentiamo responsabili di sostenere il centro. Perché? Perché il sostegno di un'istituzione deriva dalla gente, da tutti quanti, da tutti quelli che usufruiscono e comunque interagiscono con questo posto. Tutti si devono necessariamente sentire responsabili che questa cosa vada bene, che continui a essere di beneficio in questo modo. È un po' come se bisogna, nel momento in cui c'è un contenitore pieno di gioielli molto fragile, ci vogliono tante persone che lo alzano e stanno attenti e lo portano correttamente, altrimenti se manca da un angolo e poi magari si rovescia e si rompe, si perde tutto. Per cui il sostegno di tutti quanti è indispensabile. Naturalmente la responsabilità maggiore di quelli che lavorano dentro, di quelli che guidano il centro, ma tutti quanti noi, per cui non solo sto chiedendo all'amministrazione, a quelli che lavorano dentro il centro di continuare, ma tutti voi che siete in relazione a questo centro di continuare a sostenerlo in qualunque modo potete. È vostra responsabilità. Per cui sì, sono indispensabili naturalmente quelli che lavorano dentro, nei vari uffici, nelle varie responsabilità, ma tutti quanti. È un po' come se dovessimo pulire un posto molto vasto, molto grande. Più persone hanno in mano una scopa che pulisce, più in fretta e meglio verrà pulito il posto, nello stesso modo. Ovviamente le persone che lavorano direttamente al centro hanno una grande responsabilità, ma lasciarlo solo a loro questa responsabilità non è sufficiente. Non è sufficiente, sarebbe un po' come se nel momento in cui vuoi colpire il tuo nemico, non puoi essere efficace se lo colpisci solamente con un dito. Il pugno, quando fai il pugno, ci sono tutte le 5 dita che vengono messe insieme, allora diventa efficace. Nello stesso modo, solamente le persone che lavorano dentro, che sono indispensabili, non è sufficiente. Tutte queste persone, tutto quello sforzo deve essere sostenuto dalla responsabilità di tutti voi che usufruite e che avete connessione col centro. Ci sono vari modi in cui si può sostenere il centro. In Tibet, per esempio, una cosa che veniva fatta in passato, in Tibet dappertutto, adesso probabilmente solo in Kham, ci sono dei posti in Kham in cui succedono, proprio perché il Tibet comunque era una nazione buddista, no? Dove tutti sono buddisti, per cui c'era il sistema che, per esempio, quando qualcuno, un familiare muore, oppure quando si muore, quello che ha accumulato sulla base del proprio sforzo durante la vita, che siano un certo numero di yak o un certo numero di questo, di quel o di quell'altro, i vestiti, le spade, quelle cose che potevano essere i possedimenti, i beni di questa persona, la famiglia li dona al monastero, li dona al posto locale. No. Perché? Perché questo è stato il risultato della fatica, di quello che ha fatto quella persona in quella vita e che è morta, per cui donandoli accumula tantissimi meriti questa persona, perlomeno gli sforzi che ha fatto diventano significativi e nello stesso tempo questo contribuisce a sostenere il centro di Dharma oppure il monastero o comunque quell'istituzione che poi provvede il Dharma alla gente. No, per cui questo è quello che facevamo in Tibet ed è un sistema ottimo perché è un sistema che si accorda benissimo con il karma, con la causa e l'effetto, con le azioni, i loro risultati. Per questa persona, per esempio, il papà muore, la mamma muore o qualcuno della famiglia, quello che sono stati il risultato degli sforzi che ha fatto ora che è morto, quello che è rimasto, per cui proprio ciò che è in relazione a quella persona, al karma di quella persona viene offerta, è una cosa estremamente positiva per quella persona. Vi ho raccontato un po' la storia di come si faceva in Tibet. Per cui adesso ci fermiamo.